Al-Ariat, le scalpitanti. Bismillahirrahmanirrahim. In nome di Allah, il compassionevole, il misericordioso. Wal-'adiyati dhabha. Per le scalpitanti ansimanti. Fal-muriyati qadha. Che fan sprizzare scintille. Fal-mughirati subha. Che caricano al mattino. Fa-atharna bihi naq'a. Che fanno volare la polvere. Fa-wasatna bihi jam'a. Che rompono in mezzo al nemico. Innal insana lirabbihi lakanud. In vero l'uomo è ingrato verso il suo Signore. Wa innahu ala dhalika lashahid. In vero è ben conscio di ciò. Wa innahu li hubbil khayri lashadid. In vero è avido per amore delle ricchezze. أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ. Non sa che quando sarà messo sottosopra quello che è nelle tombe. وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ. E reso noto quello che è nei petti. إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ. Il loro Signore in quel giorno sarà ben informato su di loro?